l'anulare, l'indice, si preme sul trapezio, il muscolo trapezio, è quel grande muscolo che sta alla base del collo, un punto di grande tensione del corpo. Con la mano destra sul trapezio sinistro si passa davanti al corpo e con le quattro dita si preme con grande energia fino a sentire un dolore quasi sopportabile, un dolore piacevole. Se si continua così per 2-3 minuti, vi assicuro, prima sulla parte destra, poi sulla parte sinistra e viceversa, per 5 minuti vi garantisco che il dolore può passare, passa, e quindi la giornata diventa più bella. Dottor Palombini, questo è un esercizio da fare all'inizio della giornata, dopo un bagno caldo se è possibile. Esatto. Andiamo alla giornata in ufficio. Ci sono dei momenti in cui uno guarda l'ora e dice non ce la posso fare, sì, non ce la faccio ad arrivare a stasera. Non riusciamo a concentrarci, siamo appesantiti, si dà la colpa alla stanchezza, magari alla pausa pranzo che è stato un pochino più pesante, insomma non sappiamo che cosa fare e come tirare avanti. Eppure gli impegni ci vogliono pronti e svegli. Sì. Possiamo usare lo shiatsu anche in queste occasioni? Perché no? Lo shiatsu office, l'office shiatsu come si chiama negli Stati Uniti, va molto di moda, lo stiamo provando anche qui a Roma in diverse strutture importanti, quindi io credo che valga la pena provare, sempre molto seduti comodi e con delle pressioni, sempre le quattro di... Lo shiatsu fondamentalmente si fa con il pollice, ma quando si fa auto shiatsu, che è una tecnica che si usa molto per invigorirsi, per cercare di togliere queste tensioni, spesso si usano le quattro dita delle mani escluso il pollice, quindi viceversa, quando l'operatore agisce il pollice, quando si fa auto shiatsu, le quattro dita escluso il pollice, e si preme dietro la nuca, proprio dietro le orecchie, c'è un osso che si chiama mastoide, è un osso dove si attaccano molti muscoli, un muscolo molto importante, dove c'è tutta una circolazione che passa e arriva alla testa. Dietro quell'osso bisogna premere anche qui con una certa energia, prima con una mano, quindi prima su di un lato, poi sull'altro lato e poi tutte e due le mani insieme. Ripeto, la tecnica importante è di riuscire a fare una pressione così energica da evocare una sensazione dolorosa ma sopportabile, e quello è proprio la soglia dello shiatsu, lì è il trucco dello shiatsu, lì lo shiatsu inizia a diventare terapeutico. Dottor Palombini, la ringraziamo per essere stato con noi, mi sembra di avere anche imparato, io intanto che lei ci spiegava gli esercizi li provavo. Bene. Se ho capito io, guardi, lei deve essere molto chiaro e quindi le diamo appuntamento presto perché ci aiuterà ad aggiungere un tocco di benessere alle nostre giornate. Dottor Palombini, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie. Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata. Il tempo che dava l'amore lo tengo solo per me. Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu l'ho trovata. Settembre, tempo di conserve e di marmellate, questo è davvero il periodo ideale per chiudere in un barattolo di vetro tutti i profumi e i sapori dell'estate. Noi oggi iniziamo con la frutta, prepariamo la marmellata, ci aiuta la dottoressa Serena Lanzarini, medica igienista dell'AUSL di Imola, al Dipartimento di Sanità Pubblica. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Dottoressa, però lei ci insegnerà le regole di igiene, ma ci darà anche qualche buona ricetta, perché lei le marmellate se le prepara anche a casa, quindi sa il fatto suo. Direi proprio di sì. Allora, coniughiamo bontà con sicurezza. Sì, ecco, questo è un elemento estremamente importante. Noi dobbiamo fornire un prodotto che abbia una qualità, diciamo, con un valore aggiunto rispetto a quelle che sono le conserve alimentari industriali, e quindi diciamo utilizziamo prodotti con un buon livello di qualità, ecco, rispetto magari abbiamo un po' più di garanzie facendo noi produttori di queste marmellate del livello di qualità del prodotto. È chiaro che da un punto di vista organolettico diciamo il valore nutrizionale della marmellata fatta in casa non è molto diversa da quella prodotta diciamo a livello industriale, perché il trattamento termico diciamo riduce no, la freschezza del frutto, ecco, come, quindi poche vitamine, sali, diciamo, minerali. Sì, il trattamento termico diciamo ci abbatte molto questi parametri, però ecco la qualità del frutto che noi utilizziamo sicuramente è più governata da noi stessi. Però ecco, diciamo, grande attenzione anche agli aspetti della sicurezza, perché le insidie della produzione domestica non sono poche, ecco, nel senso che dovremo fare attenzione ad alcuni aspetti nella produzione di queste marmellate, che sono a partire dalle caratteristiche dei contenitori della marmellata, quindi barattoli in vetro, barattoli con tappo a sigillo ermetico, barattoli molto ben puliti e asciugati, e conservare poi le marmellate che abbiamo riposto in questi barattoli in luogo fresco e asciutto. Questo perché è diciamo uno dei pericoli più importanti, dei pericoli maggiori delle conserve alimentari fatte in casa, è proprio il botulismo, che è una tossinfezione alimentare molto molto insidiosa, e diciamo che proprio le conserve domestiche sono quelle più incriminate da questo punto di vista, proprio perché alcuni accorgimenti igienici non vengono rispettati. Allora, dottoressa, mettiamoci al lavoro. Noi cosa facciamo? Prendiamo la frutta, la laviamo accuratamente. Molto bene, la asciughiamo altrettanto bene in modo da eliminare tutti i residui di terra e di polvere, perché le spore di questo germe, che sono le più pericolose, che possono poi diciamo vegetare dentro la marmellata e dar luogo alla produzione di tossina, sono proprio ubiquitari, sono nella terra, nella polvere, ovunque, quindi laviamo molto bene e asciughiamo molto bene, eliminiamo tutto diciamo lo scarto del prodotto, quindi se ci sono segni di marciumi, ecco, eliminiamo tutto questo e mettiamo a cuocere con una quantità sufficiente di zuccheri. Quindi, perfetto, si può aggiungere anche vero la mela, un paio sì, di mele per addensarle. La mela è un addensante perché contiene molta pectina, quindi sostituisce gli addensanti diciamo chimici che possono essere eventualmente utilizzati qualora uno non volesse utilizzare. Il momento più difficile, quando la marmellata è pronta, si mette nel vasetto. Sì. Ecco, è lì cade l'asino. Che cosa si deve fare, dottoressa? Allora, intanto il travaso della marmellata va sempre fatto quando la marmellata è calda, quindi non aspettiamo, non facciamo dei ponti di temperatura, dei ponti termici, cioè non evitiamo i salti termici dal caldo al freddo, quindi manteniamo la temperatura alta quando la marmellata è cotta e quindi ancora bollente, la travasiamo nei barattoli. Poi ecco, possiamo chiudere ermeticamente, bollire almeno per un quarto d'ora questa marmellata nel barattolo, in un pentolone coperta d'acqua, quindi sì, diciamo i barattoli devono completamente essere coperti, anche il coperchio, e bollire per un certo tempo. E in almeno un quarto d'ora, vero dottoressa? Almeno un quarto d'ora, sì. Ecco. Mm. Io personalmente, diciamo, per avere ancora più tranquillità, sì, aggiungo sulla superficie della marmellata calda e bollente appena messa nei barattoli un cucchiaino di alcol a 90 gradi, quello da dolci, diciamo, sì, e faccio come produco la fiamma, accendo come il flambé. Ecco. Come il flambé, esattamente, e senza che la fiamma si spenga, chiudo, cioè metto il coperchio nel barattolo, e dopo pochi minuti noi sentiremo proprio il rumore del vuoto, cioè sì, viene classico, consumato tutto l'ossigeno che rimane quell'interca pedine man mano che si consuma la fiamma, quindi viene fatto ermeticamente il vuoto, ecco, e in questo caso diciamo abbiamo un'ulteriore garanzia. Quindi meglio farle tutte e due, dottoressa? Ecco, io lo faccio, ecco, direi è un'ulteriore garanzia, sì. Dottoressa, io la ringrazio per essere stato con noi, chiedo alle mie ascoltatrici di inviarci magari le ricette delle loro marmellate e poi sì, le passeremo alla dottoressa, che così, no, facciamo uno scambio, lei ci insegna molto l'igiene volentieri, e noi le diamo le ricette. Volentieri. Io sono una brava produttrice di marmellate d'arancia. Allora magnifico, ci sentiremo presto. Grazie molto dottoressa, bene, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. E per oggi, care amiche, cari amici, è tutto. Noi, come sempre, ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.